Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Le pratiche per il divorzio erano state avviate. Jules paventava qualcosa senza che Jim sapesse che cosa. Scrissero a Kate che tutto andava bene allo chalet e che non si facesse premura per loro. Lei telegrafò a Jim. Aspettami da solo domani, treno della sera in città dove dormiremo. Jim ci andò. Kate saltò dal treno agile, si presero le mani, si guardarono, risero di gioia. Lei gli disse: non facciamo discorsi seri, adesso. Raccontò però che Jules era stato adorabile nel vegliare su di lei per Jim. Avevano, per via dei regolamenti di polizia, due camere attigue. Kate fece sedere Jim sul divano accanto a lei e disse: eccoci qui. Tu sei il mio Jim, io sono la tua Kate. Tutto va bene. Soltanto quando ti ho visto qui per il tè un mese e mezzo fa, mi hai parlato dei tuoi affari e anch'io i miei. Mi hai parlato degli addii ai tuoi amori, anch'io sono andata a dire addio ai miei amori. Mi terrai fra le braccia per tutta la notte, ma nient'altro. Noi vogliamo avere un figlio, vero Jim? Ebbene, se tu me ne dessi uno adesso, non saprei se è tuo. Capisci, Jim? E lo scrutava intensamente. Jim capì, accusò il colpo. Al centro del rosso del suo cuore, lei beveva, che bevesse pure. Jim, troppo triste per essere in collera, sentiva il suo amore scorrere fuori di lui. Lei riprese: era necessario, Jim. L'ho fatto per noi. Dovevo ristabilire l'equilibrio. Ho avuto il dubbio, no, la certezza che tu avevi consolato alla Jim quelle che lasciavi a Parigi. Non potevo rimanere la tua fidanzata se non andavo a consolare alla Kate. Abbiamo gli stessi metodi noi due. Quello o quelli che lasciavo. Ho chiamato Albert, l'ho raggiunto a casa di mia sorella e ho cancellato in me, insieme a lui, ogni traccia della tua infedeltà. E ora siamo qui, integri e pari. Tu ami Albert? Disse Jim. No, disse Kate, sebbene abbia delle grandi doti. Lui ti ama? Sì. Jim valutava le cose. Sì, aveva fatto certi addii così come pensava Kate, sì. L'aveva fatto senza che questo cambiasse in niente il suo amore per Kate. Forse Kate aveva fatto lo stesso senza che questo cambiasse il suo amore per Jim. Jim accettò la parità proposta da Kate. Sentiva che lo amava come lui amava lei, che non c'erano né più né meno, ma una forza unica che li attirava l'uno verso l'altro. Passò un colpo di spugna come Kate. Erano lì, tremanti e casti. Casti dovettero restarlo per tutta quella grande notte d'amore e anche per quelle che seguirono, finché Kate non ebbe la certezza di non portare un figlio di Albert. «Che mirabile volteggio!» disse Jules a Jim. «Cosa non riuscite a inventare per darvi nuove emozioni?» Jules e Jim, traditi da Kate, si sentivano ancora più fratelli. L'astinenza che si imponevano esaltò Kate e Jim. La considerarono un voto, una questione di onore con se stessi. Ognuno dei due a turno, quando l'altro vacillava, salvò questo onore. Non si lasciavano, non bararono. La terra promessa era in vista. La terra promessa si allontanò di colpo. Erano andati in città tutti e tre insieme, dall'avvocato che si era occupato del divorzio e che si sarebbe occupato del matrimonio. Era una specie di gita di piacere e pensavano loro una pura formalità. Sconcertato dall'intesa perfetta e dall'allegria dei tre complici, l'avvocato si rialzò gli occhiali sulla fronte. Li guardò fissamente e disse: «Ci vuole ancora un po' di tempo perché il divorzio sia definitivo. Inoltre, pena l'attribuzione legale al primo marito, il bambino non deve nascere prima di una data calcolata, a partire dalla sentenza di divorzio in base alla durata massima di gestazione osservata nella donna». «Cosa, cosa?» disse Kate, che seguiva a stento quel linguaggio giuridico. L'avvocato tradusse in date. Bisognava aspettare circa 2 mesi prima di cominciare il suddetto bambino. Quanto al matrimonio, ci sarebbe voluto più tempo, ma Jim avrebbe potuto almeno riconoscere legalmente suo figlio. I tre furono costernati. Jules chiese se non ci fossero delle vie legali per agire contro di lui. No, non ce n'erano. Kate e Jim non prolungarono il loro voto, ma il freno che misero al bambino fu devastante. si vergognavano di obbedire alle leggi e non alla legge che si portavano dentro. La vita allo chalet riprese con questa sola grande ombra, con i suoi giochi e la sua pace generosa. Kate lesse loro ad alta voce degli ampi brani del suo diario dell'anno precedente, dall'arrivo di Jim fino alla sua partenza per Parigi. Era intricato come un tempio indù, un labirinto in cui era facile perdersi. Il diario di Jim in confronto era un sommario. Jules e Jim provarono rispetto per Kate. Se scriveste tutti e due separatamente e a fondo la vostra storia, ognuno dal suo irriducibile punto di vista, e se le pubblicaste simultaneamente, ne verrebbe fuori un'opera singolare, disse Jules. Kate eseguì per loro il numero di danza che aveva preparato nel suo atelier in città. Non fece loro un grande effetto. Ci vorrebbe, disse lei, l'atmosfera fumosa e eccitante di un locale affollato. Può darsi, ma può darsi anche che lei non ci avesse lavorato affatto e che in quelle ore avesse visto Albert, cosa a cui Jim evitò di pensare. Kate occupò con Jim successivamente tutti i letti e tutte le camere dello chalet, che requisì una dopo l'altra, fino anche la cameretta monacale di Jules. Si decise per un ampio letto rustico a baldacchino e a colonne, decorato di fiori e frutti enormi da un pittore di campagna. Kate pubblicava con successo dei disegni in una giovane rivista. Stava sempre con Jim, anche mentre lavorava. Bastava un movimento delle labbra di lei, senza che neppure alzasse gli occhi dal suo disegno, e Jim andava a dissetarle. Si convinsero che le loro carezze erano, malgrado tutto, una preparazione al bambino. Li lasciavano quelle carezze come stralunati. Ci fu una nevicata tardiva. Un bel mattino uno spesso materasso bianco ricoprì il parco. Fu Kate la prima a vederlo. Chiamò tutta la casa con grida di gioia. Si tolse il pigiama in cima alle scale e si tuffò nuda nella neve fresca. Vi scompariva, nuotava, faceva capriole, la mangiava. «Quando sarete più grandi», disse alle bambine, «anche voi saluterete la neve insieme a me». Jules e Jim temevano che rotolando sul prato coperto di neve si ferisse contro i paletti bassi che vi erano piantati. Ma lei, senza aver l'aria di pensarci, si ricordava benissimo la posizione di ognuno. Un telegramma annunciò l'arrivo di Fortunio per 24 ore. La sera stessa era lì. Jules e Jim se l'erano portato dietro appena 17enne in lungo e in largo per la Parigi dei poeti e lo consideravano come un fratello più giovane. Lui del resto li chiamava padre Jules e padre Jim. Era stato 6 anni più tardi l'amante di Kate, quasi sotto gli occhi di Jules. Ma come volergliene? Kate sceglieva e prendeva i suoi amanti ben più di quanto loro prendessero lei, e già a quell'epoca aveva potuto dire a Fortunio, senza mentire, che nel suo amore per Jules non c'era ormai più niente da sciupare. Fortunio era lì, con un cappottone a doppio petto verde chiaro, una voce roboante, un bel colorito bianco e rosa e grosse zampe da cane di razza. «Dove lo faremo dormire?» disse Jules. «Da noi», disse Kate. Jules non sapeva che non c'era un solo letto libero in tutta la casa, ma Kate aveva detto «da noi», dunque non era più affar suo. Salì alla solita ora nella sua camera da scapolo, che al mattino si alzava presto. Kate, Jim e Fortunio chiacchierarono fino a tardi nella camera del letto a colonne. Kate disse «questo letto è grande, possiamo dormirci tutti e tre». «Perché no?» dissero loro. Jim sentiva in Kate la tentazione di fare un'esperienza. «Bene, l'avrebbe fatta anche lui». Si misero a letto tutti e tre, improvvisamente al buio. Le lenzuola avevano un buon odore di fresco, anche Kate. Lei si era messa al centro. A Fortunio era stato prestato un pigiama. Jim si ricordò di Magda e della notte dell'etere. Parlarono ancora, poi tacquero. La mano destra di Kate teneva Jim. Jim fu certo che la sinistra teneva Fortunio. Confronti. Accendere la luce con l'interruttore che penzolava dietro la sua testa non sarebbe stata una mossa corretta. Erano liberi tutti e tre, testa o croce. Jim era pronto a perdere Kate senza dire una parola. Fortunio era pronto a qualunque cosa avesse voluto Kate. Jim pensò, se Kate si dà a Fortunio, io esco fuori da questa storia. Il silenzio e le manovre impercettibili di Kate continuavano. Jim non desiderò più avere un figlio da lei. Kate voltò la testa verso Fortunio, gli disse a voce alta, «Buonanotte, Fortunio», e gli diede un bacio. Si voltò verso Jim, stava per augurargli la buonanotte, ma già lui le parlava all'orecchio. «Del tempo in cui volevo un figlio da te...» «Come?» disse Kate. «Di che tempo parli?» «Di 10 minuti fa», disse Jim. Kate in un attimo scavalcò Jim, evitò per un pelo di cadere fuori dal letto, spinse Jim al centro, gli si infilò fra le braccia alla sua destra. «Continua, Jim», disse lei attenta. Non ho niente da continuare, disse Jim. Lei lo abbracciò. Jim rispettò la vicinanza di Fortunio e si addormentarono. Si svegliarono tutti e tre di gran buon umore. Fortunio fu delizioso e partì. Kate leggeva ad alta voce a Jules e a Jim un passo delle affinità elettive, la morte del bambino che annega nel lago. Le sgorgarono le lacrime. Allora anche a Jim ne spuntò una. Tutto quel che era bambini li sconvolgeva. Jules aveva pietà di loro. Jim lesse loro una poesia, Daphnis et Chloé. N'y a-t-il rien de plus, Daphnis, que nous tenir entre nos bras et nous endormir ainsi? Si, Chloé, il y a la prise de toi que je sais maintenant. N'y a-t-il rien de plus, Daphnis, que la prise de moi que tu as faite? Si, Chloé, il y a nous tenir entre nos bras et nous endormir ainsi. Kate disse, mi piace questo girare in tondo. Jules disse, è come una traduzione letterale di più lingue mescolate insieme. Jim disse che bisognava abbassare le frontiere fra le lingue. Composero delle brevi poesie mescolando tre lingue così come venivano, quasi in sogno. Jules e Jim parlarono della loro Austrasia. Kate disse che ancora ci sarebbero voluti assestamenti e guerre. Voi siete buoni europei, disse loro Jules. Siete nazionalisti solo dentro i confini del vostro amore. Durava così a lungo quell'attesa snervante. Fra Kate e Jim non fu più bello stabile, ma variabile al peggio, come direbbe un contadino. Nel cielo più sereno scoppiava improvviso un tuono e una vertigine di distruzione afferrava Kate. Le erano necessari la lotta e il sangue fresco. Il suo viso era in un attimo devastato dal dubbio e assumeva un'espressione terrificante. Il sorriso arcaico diventava una ferita di coltello. In quei momenti Jules la curava come una malata. Considerava quelle crisi un male sacro, pericoloso per lei e per tutti, terremoti dell'anima. C'erano stati nella famiglia di Kate dei grandi talenti e dei suicidi per cause oscure. E quando Jim era troppo felice, bisognava che lei lo colpisse. Un giorno di beatitudine andarono in città. Per sbrigare più in fretta delle commissioni noiose e divertirsi insieme dopo, Jim le propose questo. Lui sarebbe andato da solo a ritirare un certo documento per il matrimonio e lei in giro per negozi. Non le piaceva forse essere lasciata sola in città con le briglie sul collo come un bene che non si può rubare? Lei salì su un taxi e nel momento in cui questo partiva, Jim, che si chinava verso il finestrino, proprio sulla faccia di lui che si accostava per un bacio, disse «E adesso farò qualcosa di irreparabile». Non si fece vedere nella sala da tè dove avevano appuntamento. La rivide soltanto la sera, allo chalet. Per tutto il pomeriggio lui aveva fatto a pezzi il loro amore. Lei rincollò quei pezzi con la gioia che mostrò nel ritrovarlo. «Non aveva fatto niente», disse. Jim le credette. Jules no, proprio perché era guarita e innamorata di Jim. «Poco importa», pensava Jules. «È il suo modo di amare». Alla fine di un pasto, Jules arrischiò, contrariamente alle sue abitudini, una battuta un po' audace a proposito di una certa camicia da notte di Kate. A Jim non piacque affatto. Per Kate, delitto di leso amore. Le schiacciò tutte e due sotto il peso del suo disprezzo. Jim cercò invano di farle notare che lui non aveva detto niente. Quando Kate aveva dei rimproveri da fare all'uno, includeva anche l'altro come complice. Jules assunse un'aria contrita, ma aveva voglia di ridere. «Mio piccolo crucco», disse Jim a Kate, «mi dichiari sempre guerra». «Ne ho ben donde», rispose lei. Lui si trascorreva un periodo di tempo nella città vicina, quella in cui Jim l'aveva conosciuta. Lui non la vedeva da 7 anni. La guerra era stata lunga per lei. I genitori erano morti, la famiglia caduta in rovina. Jules la vide per primo, sola. Raccontò la sera che era sempre Lucie, ma che era assai cambiata. Aveva la stessa età di Jim, 8 anni più di Kate. Lucie andò a trovarli. Jules l'aveva messa al corrente di tutta la loro storia. Jim fu turbato dalla vista di una Lucie invecchiata. Le sue belle mani avevano lavorato. Pranzarono tutti e quattro e si sedettero nel parco. Kate si mise d'impegno per un po' a farle crudelmente sentire che quei due uomini che l'avevano amata erano suoi adesso, di Kate. Ma Lucie non era più su quel piano, attingeva le sue forze altrove. Sapeva che, trascinati nel vortice di Kate, loro serbavano in se stessi le ragioni del loro antico amore per lei, Lucie. Riconosceva a Kate audacia e vitalità, niente di più. Kate le parlò del divorzio, del suo fidanzamento con Jim. Sostenne questa tesi.